Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Non si cura di chiedersi se abbiate torto o ragione. Non gli interessa se abbiate fortuna o no, se siete ricco o povero, istruito o ignorante, santo o peccatore. Siete il suo compagno e ciò gli basta. Egli sarà accanto a voi per confortarvi, proteggervi e dare, se occorre, per voi la sua vita. Egli vi sarà fedele nella fortuna come nella miseria. È il cane. Jérôme. Ci sono cose che gli uomini insegnano agli animali, ma vale anche il contrario. Ci sono cose che gli animali insegnano agli uomini. La relazione tra uomo e animale e l'animale che sceglie di avere al proprio fianco è una relazione in tutti i sensi. Difficile dire chi dà chi, chi impara da chi, chi si affida a chi. Buongiorno intanto da Nicoletta. Il nostro numero verde è già attivo, 800 24 00 24. Oggi approfondiremo insieme, grazie anche all'aiuto di tanti esperti, la conoscenza della relazione tra l'uomo e il cane. La vedremo sotto molti punti di vista e sfaccettature. Qui in studio con me c'è Angelo Vaira, grande esperto di agevolazione della relazione cane-uomo, che ha appena pubblicato per Kowalski un libro, Dritta al cuore del tuo cane, che io ho letto e che mi è piaciuto molto. Io sono amante degli animali in genere e ho una relazione molto stretta con il cane che vive con me. Bene. Grazie Angelo per essere qua con noi. Io ti do del tuo Angelo. Ma ci mancherebbe. Tra l'altro abbiamo proprio tre copie del libro di Angelo Vaira messe a vostra disposizione da Kowalski, e quindi cominciate a chiamarci per raccontarci pregi e difetti, alti e bassi, luci e ombre, comportamenti strani, e soprattutto mi piacerebbe capire come la relazione con il vostro cane vi ha cambiato. Insomma, io vorrei oggi rovesciare un po', no? La dinamica, perché secondo me tante volte possiamo considerare il nostro cane come una sorta di coach a quattro zampe. Si usa molto questa parola di allenatore. Certo. Il cane ti ama, ha con te una relazione, ma tu devi essere responsabile, sì, autorevole, onesto, insomma non gliela puoi tanto contare. No. I cani poi sono un po' come i bambini per certi versi, per cui effettivamente si accorgono, sono dei calibratori straordinari, cioè leggono le persone. Sai quando uno dice il cane sembra come se abbia un sesto senso? Quello non è sesto senso, è che il cane ti legge in faccia esattamente quello che pensi, le tue intenzioni, tutto, e quindi ovviamente non puoi tanto raccontargliela, come dici tu. 800 24 00 24. Io vorrei entrare un po' nello spirito di questo libro, che ci aiuta un po' a rivedere sia la nostra relazione con il cane, sia un po' a fare un po' un autoesame. Insomma, tutto serve. Giusto. Andiamo a sentirla, poi la commentiamo insieme a voi. Il confronto con il mondo animale ci dona una comprensione più profonda della nostra identità di esseri umani. E il cane gioca un ruolo chiave in questo incontro. Il cane, e per qualche verso anche il gatto, altro animale incredibilmente affascinante, vivendo fra le mura domestiche, così vicino a noi, rappresenta la principale porta d'accesso al regno degli animali. Accende la curiosità, stimola l'empatia e spezza la visione non scientifica del mondo, secondo cui l'uomo è al centro di tutto. Angelo, per riprendere il titolo del tuo libro, Dritto, sì, al cuore del tuo cane, mm-hmm, potremmo dire che a volte è il cane che va dritto al cuore del suo padrone. Certo, assolutamente sì. Il cane abbiamo tanti motivi, no, per cui adottiamo un cane, anche quando il cane ci fa da coach, no, dici tu. Sì, perché il cane non ti giudica, per esempio, che tu sia ricco, povero, alto, basso, magro, grasso, al cane non gli importa. Cioè, è già per il fatto di averlo adottato, lui ti accetta così come sei e ti perdona. Dona un sacco di cose, questo è il varco che lui riesce a aprire un po' nel nostro cuore, nella nostra mente, quindi diventa una sorta, la relazione col cane diventa una sorta di campo di allenamento per la nostra intelligenza emotiva, la nostra intelligenza sociale, e più sei attento a questo, più sei disposto ad apprendere, tanto più velocemente risolvi anche i problemi col cane. Ci sono persone che dalla compagnia grazie proprio alla compagnia di un cane sono riuscite, mm-hmm, a superare anche momenti difficili, sì. Pensiamo alla solitudine, no? Tante volte, questo è anche, se vogliamo, un discorso abbastanza delicato, perché ci sono persone persone che proprio nel cercare la compagnia di un animale si chiudono agli altri. Mm-hmm. Ecco, il cane diventa un po' un surrogato di relazioni che invece devono essere assolutamente presidiate e tutelate. Il cane non può essere... Non è una sostituzione, questo in zoantropologia si chiama vicarianza. Il cane sostituisce il bambino, il cane sostituisce il partner, invece non dovrebbe essere così. Il cane ha un suo status, va accettato per quello che è, ed è proprio da questa accettazione capire che il cane ha dei diritti e sono diversi dai diritti degli altri esseri umani. Grazie a questa relazione è così che ci si sviluppa e si evolve all'interno della relazione col cane. Senti Angelo, vorrei esplorare con te alcune fasi dell'età della vita di ciascuno di noi e verificare insieme a te quali sono i vantaggi, perché poi parleremo anche delle luci e delle ombre per iniziare il proprio rapporto con il cane, ad esempio l'infanzia. L'infanzia è ovviamente il momento probabilmente più importante della vita di una persona. Il cane regala un sacco di cose in questo periodo, dal fatto che semplicemente c'è una maggiore neuroattivazione nel bambino, quindi il fatto che il bambino abbia a che fare con un cane, se tu porti un cane per esempio in una scuola, in un'aula a scuola, vedi catalizzare l'attenzione dei bambini sul cane, perché è una sorta di enciclopedia vivente, no? È come se i bambini leggessero l'enciclopedia, ma molto velocemente, con tutti i sensi. Ovvio che però qui è molto importante il ruolo del genitore. Sì. Perché lasciare per esempio un cane e un bambino da soli, o lasciare che il bambino faccia tutto quello che vuole col cane, espone non soltanto il bambino al rischio di non comportarsi correttamente nei confronti di un altro essere vivente, ed è questo il guaio più grosso, ma ovviamente anche il cane stesso diventa vittima. Certo. E quindi vanno non soltanto monitorati, ma vanno offerte al bambino delle chiavi di lettura del cane. Quello è il momento giusto per far rendere conto al bambino che il cane ha i suoi bisogni, che vive le sue emozioni. Quando il cane emette dei segnali calmanti, come per esempio girare la testa, volersi allontanare, sbadigliare, quello è il momento in cui un genitore deve intervenire, deve cercare di far leggere al bambino queste fasi qui. E ovviamente deve interporsi qualora ci fossero dei problemi, sia del quindi, bambino sul cane che viceversa. In questo, proprio tornando un po' al taglio che vogliamo dare alla trasmissione, quanto noi possiamo imparare dalla convivenza con un animale. Noi oggi parliamo di cani, ma tu parli anche di gatti, no? Riconosci, non nel tuo libro specificatamente, però non vogliamo assolutamente... Non sono un esperto di gatti, questo voglio precisarlo, ma è un animale altrettanto affascinante. Affascinante. Quindi che cosa può imparare un nostro figlio da una relazione con il cane? Può imparare la responsabilità e può migliorare la propria intelligenza sociale ed emotiva. Perché imparando a leggere il cane, quando il cane è triste, quando il cane è felice, quando il cane è stressato, può in questo modo esercitare le proprie capacità di relazionarsi con gli altri. Ci sono di ricerche, tra l'altro, che testimoniano questo. Ne parleremo nel corso della trasmissione. Intanto voglio leggervi un messaggio di Isabelle. Da 6 anni vivo da sola con la mia cagnolina e non mi vergogno mica di parlare sempre con lei. Io penso addirittura che mi capisca e la amo da morire. È una bastardina bellissima, molto molto paziente, ma non sostituisce le persone. Persone che vivono da sole con i loro cani, abbiamo parlato di bambini e di ragazzi, un adulto, con gli adulti il cane svolge anche lì dei ruoli importanti. Per esempio questa Isabella, si chiama la nostra ascoltatrice, Isabella dice: parlo al mio cane e sembra quasi che mi capisca. Il cane capisce le persone, non riesce a capire probabilmente esattamente i contenuti, il contenuto verbale di quello che lei dice, ma la capisce dal punto di vista più profondo, cioè laddove ci sono intenzioni, emozioni, motivazioni, che è la parte che ci connette agli altri quando proviamo fiducia, quando proviamo un'intensa sintonia, armonia con gli altri. Ed è lì che si instaura quel legame a cui tutti quanti noi siamo così fortemente attaccati, no? Quando se ne va via un cane, quando addirittura dobbiamo lasciarlo per andare in vacanza, non vogliamo, perché diciamo: ma povero, il mio cane sta lì mentre io me la godo, sto in vacanza. Alcuni non vogliono, altri se ne liberano troppo velocemente. Altri sì. Allora, intanto 800 24 00 24, raccontateci delle storie. Non è necessario che siano delle storie speciali, delle storie che fotografano un po' l'atmosfera, il passo del vostro rapporto con il cane. Non dimenticate che tre di voi potranno ricevere una copia autografata da Angelo Vaira del suo Dritto al cuore del tuo cane. Abbiamo subito Emiliano che ci chiama da Massa Carrara. Buongiorno Emiliano. Sì, buongiorno. Siamo qua. Eccoci. Non so se devo salutarla con un bau bau, ma lei è in linea. Buongiorno. Buongiorno, ascolti, io ho due bimbi piccoli, una bimba di un anno e un bimbo di 3 anni che sono assolutamente rapiti dal cane dei miei genitori, tant'è che mio figlio ha detto prima il nome del cane di babbo, ecco. È successo questa mattina che il cane abbia fatto la pipì sulla biciclettina del bimbo. Ora io non so come comportarmi, se ho fatto bene a sgridare il cane, se invece no, cosa, che segnale è, cosa vuol dire, cosa significa. Ma l'interpretazione di questo non è così semplice da fare, perché bisognerebbe conoscere di più. Però torniamo al punto chiave, cioè che cosa fare se il cane fa una cosa del genere. Se voglio rimproverare il cane, devo soprattutto, più che rimproverarlo, interromperlo. Quindi interrompere significa agire nel momento stesso in cui il cane fa questa cosa qui. Perché purtroppo non ci rendiamo conto che è esattamente come con le persone, perché questi esercizi io li faccio in aula, nei miei corsi, prendendo delle persone e mettendole al posto del cane. Se non interrompi l'azione nel momento stesso in cui si verifica, purtroppo non ha effetto. E quindi se il cane ha fatto la pipì sulla bicicletta, ma andiamo lì dopo un'ora, mezz'ora, e portiamo il cane lì vicino alla bicicletta e gli diciamo guarda che cosa hai fatto, il cane finisce semplicemente per associare alla bicicletta qualcosa di negativo e potrebbe poi ritorcersi contro nel momento in cui il bambino si mette sulla bicicletta e va. Ci sono alcuni cani che poi vanno lì ad abbaiare o vanno contro le gomme, possono causare la caduta del bambino. Quindi adesso mi chiedo effettivamente che cosa sia successo lì. Non è così preoccupante il fatto che il cane abbia fatto la pipì lì sopra, insomma. I cani sono così permeabili ai sentimenti umani. Con la convivenza dalla notte dei tempi siamo diventati quasi uguali. Per questo tante persone li detestano. Vedono troppe cose di sé riflesse nel loro sguardo teneramente vile, cose che preferirebbero ignorare. Susanna Tamaro. Ecco, io abbiamo scelto in redazione questo messaggio, questo breve estratto di Susanna Tamaro, anche perché oggi vorremmo parlare alle persone che, come noi, no, hanno una relazione con il cane, di rispettare le persone che con i cani non hanno feeling. Sì, assolutamente. Quindi io mi faccio subito portavoce. Cani metropolitani, se avete un amico cane dovete uscire con la paletta e con il sacchetto, sì. Questo ci tocca, sì. Perché dobbiamo innanzitutto rispettare le persone che dei cani ne farebbero volentieri a meno o che non hanno particolare fili con il cane, e evitare, cosa che capita frequentemente, che il cane vada ad annusare le persone quando non la sua presenza, la sua vicinanza, il suo tartufo bagnato non è gradito. Potrebbe, esatto, non essere gradito. Questa è una cosa importante perché alcune persone semplicemente non possono farci nulla. Ci sono persone che hanno paura del cane e tu hai voglia di dirgli guardi, non deve aver paura, perché quello ti dice: se io non avessi già la capacità di non aver paura, ci avrei già pensato da me. Allora bisogna, anche qui c'è una distinzione tra fobia, paura e intolleranza. Cioè l'intolleranza è quando il cane non mi piace, il cane me lo devi tenere lontano. Ognuno ha i propri diritti, e questo è certo. Quindi per riuscire a rendere le persone un po' più tranquille in presenza dei cani dobbiamo innanzitutto metterle al sicuro. Quindi se ci accorgiamo che una persona ha paura, delle resistenze eccetera, la prima cosa da fare è semplicemente richiamare il cane a noi. È per questo che è importante avere un cane educato, in modo che queste persone si tranquillizzino. Certo. E questo è un altro esercizio a cui le persone che hanno cani si devono continuamente allenare, che il rispetto è anche nelle piccole cose, è il rispetto delle idee, delle paure altrui. Esatto. Quindi io penso che su questo, vero Angelo, non dobbiamo essere molto onesti. Mentre succede questa cosa è assolutamente nostro dovere fare questo. Allo stesso tempo io chiedo alle persone che hanno paura del cane eccetera anche lì di fare qualcosa, o alle persone che semplicemente dicono no, il cane qui non ci deve stare, magari non si sono mai chieste neanche perché non ci deve stare, perché il cane nella nostra società porta dei benefici. Avere dei cani che entrano in un bar piuttosto che entrano in un negozio cambia l'atmosfera, questo è il principio su cui si regge tutta la pet therapy, per esempio, per cui dovremmo poi a un certo punto riflettere un pochettino meglio sulla presenza dei cani nei nostri negozi, nell'ambiente urbano eccetera, pur tenendo però attenzione a mente noi proprietari di cani che dobbiamo rispettare anche gli altri. Abbiamo Egidio che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Egidio. Buongiorno. Buongiorno. Siamo Io qua. Volevo portare quello che era la mia esperienza con una cagnolina femmina che si chiama Trudy, che è con me dalla bellezza di 21 anni? Sì. Fantastico. Purtroppo non ho il documento con la data valida da poterlo dimostrare, in quanto non gli ho fatto fare subito il decreto del veterinario. Però ne avevo due, avevo lei come femmina e un maschietto di nome Whisky, sì, che è nato 4 mesi prima, e di questo documento sono in possesso. Egidio, che cosa ha imparato in questi 21 anni, tantissimi, di convivenza? Che cosa le ha insegnato, ma, Trudy? Innanzitutto uno sguardo dolce e che trasmette, oltre alla dolcezza, si fa capire di quello di cui ha necessità in una maniera espressiva favolosa. Vedi, ma io direi di più, è anche Egidio, giusto il suo nome? Ricordo bene. Ecco, anche Egidio ha affinato le sue capacità di leggere il cane grazie alla sua cagnolina. Anche questa è una cosa importante, cioè a volte ci sembra che i nostri cani si esprimano perfettamente, ed è vero, perché tante volte lo fanno, ma trascuriamo il fatto che grazie a questi segnali noi stessi abbiamo affinato le nostre capacità, e questo è un altro momento in cui il cane ci fa da coach. Ecco, tu come te ne sei reso conto? Di che cosa? Di queste abilità tu stai dedicando, sì, no? È diventato un lavoro, sì, hai messo a confronto tante ricerche, sì, hai proprio tradotto, come si dice, dalla teoria alla pratica, tanti insegnamenti, sì, tante scuole di pensiero, sino a proprio creare un metodo. Sì, sì, questo metodo, diciamo questo approccio, più che metodo, è una visione che si chiama Think Dog, che significa imparare a pensare come pensa un cane, no? Mettersi nei suoi panni, guardare il mondo dalla sua prospettiva. E beh, è venuto fuori un po' con gli anni. Il mio maestro è stato Lucky, il mio Lucky, che oggi ha 15 anni, che mi aspetta a casa adesso, è stato lui un po' a farmi rendere conto di queste cose. Io gli devo veramente tutto, gli devo il mio lavoro, gli devo quello che stiamo facendo oggi, e tante persone devono anche a lui stesso le cose che stanno imparando. E grazie alla relazione con Lucky che ho capito quanto i cani potessero cambiare le persone. Sono andato alla ricerca, a questo punto ho fatto una ricerca d'archivio negli studi, nelle ricerche scientifiche che sono state fatte, ho trovato un mare, un oceano di cose, e quindi ho fatto poi in modo di applicarle poi al mio lavoro, ad insegnare alle persone non soltanto a risolvere i problemi con il loro cane o fare il percorso di educazione, ma a crescere all'interno di questi percorsi. Abbiamo Matteo che ci chiama da Trieste. Buongiorno Matteo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, molto bellissima trasmissione, volevo dire. Siamo un po' di parte, Matteo, perché ho capito già che lei, se interviene, è un amante dei cani o degli animali in genere, però certo, anche secondo me riflettere su questa relazione, su quanto ci può dare, può essere una cosa interessante. Grazie Matteo, mi racconti. Certo, io volevo dare la mia testimonianza, ho 33 anni e fino all'altro anno ho passato 11 anni con una mezzalupa, e siccome è arrivata in età adolescenziale, ecco, questo è il tema del mio intervento, contributo, sì, dire che insomma tanti ragazzini e ragazzi adolescenti che hanno i problemi che hanno, insomma, grazie a un cane, come è stato nel mio caso, possono ritrovare una connessione profonda con la natura, come è stato per me, in quanto io abito vicino al Carso Triestino e un paio d'ore al giorno le passavo nel bosco, insomma, con la mia cagnetta. Fantastico. E questa cosa qua, io stavo parlando con gli amici più di una volta, ho detto, un po' scherzando ma un po' no, la mia Zeta, si chiama la mio cane, mi ha salvato la vita, nel senso che mi ha impegnato nel cambiare stile di vita in un momento come quello adolescenziale, che è così che può essere anche, insomma, rischioso a livello di comportamenti, e mentre avere a carico un cane non ti consente di vivere in un modo totalmente staccata, insomma, ma certo, responsabilizza, e in più ti dà la possibilità di stare nella natura, che è la vera scuola, a mio avviso, in questa vita, insomma. Allora, io direi a Matteo, Angelo, possiamo far recapitare a casa una copia del tuo libro, perché molto Matteo volentieri ci ha raccontato la sua esperienza, e devo dire che è andato dritto al cuore, dritto del tema, non del problema. Allora, prima dei mercati, io voglio ricordarvi, come lo faccio ogni giorno, di andare nel nostro laboratorio del benessere, il nostro Daily Lab. Ogni giorno i nostri esperti si prendono cura di noi e soprattutto ci insegnano a prenderci cura di noi, a diventare proprio protagonisti attivi della nostra salute e del nostro benessere. È questo che dobbiamo fare passo dopo passo con un click. www.radio24, andate sul Daily Lab, cliccate e seguite i consigli dei nostri esperti. Essere e benessere. Mi chiamo Papi. Discendo da una stirpe di orgogliosi guerrieri. I miei antenati andarono in battaglia al fianco dei soldati aztechi. Oggi ci muoviamo nella cerchia ristretta delle persone più ricche e potenti del pianeta. Chi sono io? La domanda è: che cosa sono io? sono un chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Il mondo, non provate a dubitarne neanche un secondo. Gelosi? Più duri dai muri, attenti a voi, i veri fuori classe. Grandi, piccoli, di razza, meticci, parliamo di loro, dei nostri coach a quattro zampe. Oggi cerchiamo proprio di capire che cosa ci insegna la relazione con il cane. Ci sono state diverse ricerche da cui Angelo Vaira poi ha preso spunto per tradurle in pratica, no? È stato riconosciuto sicuramente che prendersi cura di un animale aiuta a calmare l'ansia, trasmette calore affettivo, contribuisce a superare stress. E infine la relazione anche tra bambini, adolescenti, animali, riprendendo anche lo stimolo che ci ha regalato Matteo, certo. È una relazione molto importante perché responsabilizza l'adolescente. Assolutamente. E gli impone un po' delle regole e soprattutto si sente responsabile di un'altra vita, assolutamente sì. Tra l'altro poi Matteo, c'è un bellissimo spunto che ci ha dato, perché c'è una ricerca svolta negli Stati Uniti, come dimostra, su un campione di circa 360 studenti universitari, come quelli che abbiano vissuto in adolescenza con un cane siano più competenti a livello sociale ed emotivo. Semplicemente dal fatto di essere vissuti con un cane, non è che hanno dovuto fare chissà quali cose, solo dal fatto di essere vissuti col cane. È un po' la responsabilità che ci si assume, gioca il suo ruolo importante, ma è semplicemente il fatto di poter comunicare con un cane, che comunica non verbalmente, e quindi c'è una danza comunicativa istante per istante che ci apre un po'. Ecco, ed è questo su cui io vorrei soffermarmi un attimo con te, Angelo, perché ne parli molto nel tuo libro. Noi nella relazione con il cane ci alleniamo a comprendere le sfumature. Assolutamente, proprio per il fatto che il cane non riesce a comprendere così perfettamente i contenuti di quello che diciamo, dobbiamo sforzarci di usare per esempio bene il nostro corpo, la nostra espressione del volto, il tono della voce, e regolare tutte queste cose in base alle risposte che riceviamo dal cane. Poi ovvio che se una persona si incuriosisce un pochino di più e quindi va ad approfondire per esempio cosa sono i segnali calmanti, che sono una serie di segnali che il cane lancia per poter pacificare, risolvere i conflitti e rendersi amichevoli, per esempio leccarsi il naso, girare la testa, mettersi seduto, sdraiarsi, grattarsi, annusare per terra, ce ne sono tanti insomma. Se tu fai attenzione anche a questi piccoli dettagli diventi un comunicatore ancora più bravo e cominci poi a leggerli ovunque, perché li leggi nelle altre specie animali, uomo ma compreso, anche negli uomini. Assolutamente, sì. Impariamo proprio a utilizzare il nostro corpo, la gestualità, la voce, e stare attenti ai piccoli dettagli che nella comunicazione non verbale fanno la differenza. Voi siete d'accordo? 800 24 00 24. Parlando di animali, io vorrei parlare anche di pet therapy, perché lo sappiamo, in molti ospedali da anni sono entrati terapeuti a quattro zampe. Ce lo facciamo raccontare dalla dottoressa Simona Caprilli, che è psicologa del Maier. Buongiorno, dottoressa. Sì. Buongiorno. Allora, sono entrati anche gli animali da qualche anno nel reparto, i bambini relazionano, i bambini anche con problemi di salute, si relazionano con gli animali e ne traggono numerosi vantaggi. Sì, è dal 2002 che all'ospedale Maier è attivo questo progetto, che fu introdotto dalla Fondazione Livia Benini, ma che adesso è proprio parte organica dell'ospedale. Ci sono 5-6 cani che vengono portati nei reparti, proprio al letto dei bambini, da due operatori specializzati, Francesca Mugnai e Alexis Gerakis, dell'associazione Antropozoa Onlus. Questi cani vanno sia da bambini direttamente a letto, oppure anche dai bambini in sala di attesa, o magari che sono venuti in ospedale per una visita, per un controllo, ed è finalizzato ad aiutare e supportare sia bambini, sia genitori, sia gli operatori sanitari in momenti che possono non essere piacevoli. Noi abbiamo visto che i bambini traggono grande beneficio da questa presenza inaspettata in ospedale, e abbiamo fatto anche delle ricerche in cui abbiamo potuto dimostrare che il bambino, per esempio, supporta meglio il dolore, combatte meglio contro il dolore, per esempio durante un prelievo di sangue, oppure abbiamo visto anche bambini che per esempio rifiutavano di alzarsi dopo un intervento chirurgico per paura del dolore, e insieme al cane invece sono riusciti ad alzarsi e a camminare. le varie attività che sono proposte sono di tipo diverso, per esempio i cani possono essere spazzolati, accarezzati per produrre più un impatto, diciamo, di calore, di tenerezza, oppure possono, i bambini possono essere stimolati, come per esempio nel giocare, nel correre, sempre ovviamente a seconda delle certo. condizioni cliniche del bambino. C'è una preparazione alle spalle, perché i cani sono ovviamente controllati dal punto di vista medico, ogni 3 mesi fanno le analisi e tutti i controlli, hanno delle certificazioni comportamentali e in più vengono fatti dei corsi di preparazione per gli operatori all'interno dell'ospedale, perché devono anche gli operatori, infermieri e medici sapere di che cosa si tratta. E quindi noi siamo molto contenti di questo progetto, che viene di anno in anno sempre confermato e anche aumentato, le ore vengono inserite volta a volta all'interno dell'ospedale, sono proprio i bambini spesso che chiedono i cani, ci sono vari cani, per esempio c'è Cannella che è un Labrador, Budino che è un meticcio, Maxim che è un barboncino. A seconda del tipo di cane ci sono varie attività che vengono proposte. Sono proprio i bambini che li chiedono, che restano in contatto con gli operatori, che si iscrivono, ed è una, insomma, una bella esperienza. Straordinaria. Sì, grazie, dottoressa Caprilli. Grazie a voi, buona grazie. Giornata. Grazie, saluti i bambini. Abbiamo Monica che ci chiama da Milano. Buongiorno Monica. Buongiorno, buongiorno a buongiorno. Tutti. Volevo solo raccontare la mia esperienza e spezzare una lancia per i cani di canile. Sì. Mia mamma, disabile, 90 anni, dopo un lutto molto, molto grosso che abbiamo avuto in famiglia, io volevo prenderle un cane e sono stata consigliata proprio dai volontari del canile per un cane perfetto, diciamo, perfettamente per lei, nel senso che non era un cane che stava volentieri in casa, che era molto tranquillo, e è nato questo amore incredibile adesso tra mia mamma e questa cagnolina, tutte e due, una la sua poltrona, mia mamma la sua poltrona, la cagnolina la sua poltrona, c'è questa simbiosi, si assomigliano sempre di più. E una cosa volevo dire, che il cane ha aiutato mia mamma tantissimo. Il cane mette allegria. Il sì. cane mette allegria. Angelo, possiamo far ricevere a casa a Monica, ma perché lo consegni alla sua mamma il tuo libro? Direi proprio sì, assolutamente. La scegliamo la sì. mamma di Monica, Dritto al cuore del tuo cane, di Angelo Vaira, arriverà a casa della mamma di Monica. Grazie Monica. Grazie. Per averci chiamato. Angelo, ci sono molti ascoltatori che ci chiedono però come entrare in questa relazione, come sì. interpretare eventuali segnali, se bisogna come si alleva un cane, mi stanno chiedendo, come si educa, come si potenziano e si sviluppano magari le sue attitudini, ci vuole dolcezza, ci vuole polso. Come si fa? Okay. Allora, la cosa più efficace, la cosa più importante è riuscire a capire quali sono i bisogni di un cane che sono diversi dai bisogni di una persona. Spesso sai che il cane si identifica un po' come il bambino, soprattutto per i cani piccoli, no? Quindi sì. per esempio si tiene tanto in braccio, gli si fa uscire poco di casa perché magari si pensa che non ne abbiano bisogno, invece è al contrario, perché il cane deve socializzare, deve stare per terra, deve andare ad annusare le persone che vogliono farsi annusare, ovviamente. Ma essere attenti ai bisogni del cane è la prima cosa. Il cane ha bisogno non soltanto di mangiare, bere, dormire, sentirsi al sicuro, ma sentirsi parte di un gruppo. Per esempio, se una persona tiene il cane in giardino e il cane in casa, c'è un'enorme differenza nell'evoluzione, nella loro comunicazione. Una persona che tiene il cane in casa e che gli fa vivere anche il giardino, ovviamente, se ha il giardino, riesce ad ottenere risultati più velocemente, proprio perché il legame di attaccamento e la loro comunicazione funziona di più. Certo. Se tu prendi il cane e te lo metti in giardino, non soltanto l'hai reso un cane non così felice, perché il cane vuole prima di tutto sentirsi parte del gruppo, poi hai bisogno di annusare, ma ovviamente avrai dei risultati più deboli, più difficili certo. da raggiungere. L'altra cosa, polso o non polso? Beh, probabilmente gli ascoltatori avranno già sentito parlare della teoria del capobranco, fare queste cose. Bene, oggi si sa, grazie alla ricerca scientifica, grazie a molti bravi etologi, che il cane in realtà ha bisogno più che altro di una figura genitoriale. Questo però non significa trattare il cane come un bambino. Assolutamente. Ecco. Significa semplicemente riuscire appunto a tenere conto soprattutto dei bisogni del cane, comunicare con lui, che è un po' quello che stavamo dicendo prima, e poi farsi capire. Come ci si fa a capire dal cane? Questo adesso, tra poco. Lo diciamo tra poco, perché abbiamo le informazioni sul traffico. 800 24 00 24, ancora uno tra voi sarà scelto per ricevere a casa Dritto al cuore del tuo cane, gentilmente offerto dalla Kowalski. Noi ci sentiamo subito dopo il traffico. Essere e benessere. Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinari? Eh sì, in effetti il nostro cane riesce, no? A farci sentire delle persone straordinarie. Sì. Quando entriamo a casa dopo una giornata di lavoro che ci sentiamo un po' giù, e arriva lui. Però questo è frutto proprio di una relazione, di una di dinamiche che noi dobbiamo conoscere. Più le conosciamo, più riusciamo a rendere questa relazione significativa per noi e per il cane, più gradevole anche, no? Certo. E concretamente, dato che tu sei proprio anche nel tuo libro, no? Dei consigli molto bisogna essere pratici. Cioè, il fatto è che i principi servono, la visione serve, però deve servire a che cosa? Dobbiamo produrre dei cambiamenti misurabili nella nostra vita. Quello che noi desideriamo è un aumento della qualità della vita grazie alla relazione col cane. È difficile da capire all'inizio, le persone ce lo dicono, ma quando vengono ai nostri corsi, dopo un po' cominciano a dire: io non pensavo possibile, ma mai cambiato la vita. Perché il cane ti apre un varco, ti apre degli orizzonti che altrimenti non avresti. Eppure c'è un problema che tutte le estati tocca tutte le città: cani, animali che vengono abbandonati da chi parte per le vacanze, lascia la città, e spesso lascia in città l'animale con cui ha convissuto sino a quel momento. Abbiamo il piacere di avere in linea con noi Francesca Martini, sottosegretaria alla salute. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti. Chi abbandona un cane lo condanna, questo è il claim della campagna contro l'abbandono degli animali che avete presentato. È un messaggio forte, chiaro, che dovrebbe arrivare, a proposito del cuore, dritto al cuore di tutti noi. Amanti e non amanti degli animali? Assolutamente sì. La consapevolezza deve essere questa: un cane abbandonato è destinato ad una morte atroce, per cui ho voluto essere molto diretta con questa campagna che presento annualmente attraverso il Ministero della Salute contro gli abbandoni estivi degli animali, e anche l'immagine che vedrete è molto forte, perché c'è un meticcio abbandonato sul ciglio di una strada e una macchina che va verso le vacanze con tutte le valigie, che è legato ad un cappio al collo, che è simbolo di questa condanna, perché un cane abbandonato muore di fame, di sete o è vittima di un incidente stradale. Poi non dimentichiamo che abbandonare un cane è un reato punito penalmente e anche sanzionato sul piano diciamo pecuniario, e oggi più che mai quello che auspico è una condanna anche di tipo sociale. Quello che percepisce la gente è che chi abbandona un cane, quello è il vero bastardo, non il povero animaletto che magari ha passato qualche mese nelle nostre case e che poi si vede, appena si parte per le vacanze, ridotto a cosa? A cosa? Quindi è un'ignobile piaga del nostro paese, su cui devo dire ho delle soddisfazioni, nel senso che in questi 3 anni in cui seguo direttamente il settore medicina veterinaria e benessere degli animali, abbiamo una riduzione degli abbandoni. Roberto le scrive: bene alle leggi dure sugli abbandoni, brava la sottosegretaria. Ricordiamo anche, mi permetta, che sicuramente condanniamo a morte l'animale, e può essere vittima di un incidente, può causare incidenti mortali. Quindi no, questo lo dico alle persone che magari sono poco sensibili al discorso, al fatto che il cane rimanga schiacciato sotto un tir, ma bisogna anche pensare che diventano un pericolo per chi è al volante. Io ringrazio e mi complimento con il sottosegretario alla salute Francesca Martini, e la ringrazio di essere intervenuta nel mio programma. Buona giornata. Grazie a voi per tutto quello che fate. Grazie di cuore. Grazie. Io vorrei commentare insieme al professor Alessandro Alessandro Fiocchi, pediatra allergologo alla Macedonio Melloni, che saluto, è venuto a trovarci. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo sviluppato anche e parlato di quanto la compagnia di un animale possa essere utile sul piano relazionale, ma adesso c'è una ricerca che dice che la compagnia di un animale peloso, o di un cane o di un gatto, può in qualche modo avere anche un effetto positivo nella riduzione o per evitare l'insorgenza di allergie. Professore, mi fa capire bene di che cosa si tratta e quanto è affidabile, come bisogna leggere questa ricerca? Buonasera, buongiorno a tutti, prima di tutto. Buongiorno. È stata una ricerca del gruppo di Detroit negli Stati Uniti, in cui, rivedendo i record clinici di oramai diventati grandicelli, diciottenni, sono andati a vedere qualche relazione c'era tra il possesso di un cane e di un gatto nel primo anno di vita e lo sviluppo di allergia al cane e al gatto. Sì. Risulta che con più cani e gatti si allergici si è. La conclusione di questa ricerca è che questo potrebbe essere un fattore protettivo. Nicoletta, dobbiamo dire che il potrebbe è d'obbligo. Perché certo, per questo ricerca... io ho chiamato lei, per non lasciarmi ad andare ad entusiasmi. Sì, perché certo. Una ricerca di questo genere subisce i rischi della retrospettività, e cioè è più facile che avessero in casa un cane e un gatto le famiglie cui i bambini non erano probabilmente destinati a diventare allergici. Quindi questo limita un momentino i risultati della ricerca. Certo. Però noi già sappiamo da altri studi che se in una casa ci sono tanti, ma tanti animali, questo può essere associato con una riduzione delle allergie. Purtroppo sappiamo che se invece l'animale è uno solo, questo è associato con un aumento delle allergie al cane e al gatto. Quindi o una gatteria intera oppure o niente. Grazie professor Fiocchi, grazie per essere stato con noi. Io vorrei, se tu sei d'accordo, Angelo, sì, consegnare l'ultimo libro che abbiamo a disposizione a Daniela, sì, che ci ha scritto sentiamo. Un sms al 349-238-6666. Ci scrive: ho tanta paura dei cani, non riesco ad avvicinarli, ho una bimba di 7 mesi. Come posso evitare di comunicare questa paura a mia figlia, insegnarla ad amare questi animali? Io penso che a Daniela la lettura di Dritto al cuore del il tuo cane possa aprirle, assolutamente, possa darle qualche idea in sì, più. Sì. Ringrazio D'Angelo Vaira per essere stato con noi. Ringrazio grazie voi a che siete intervenuti, ci avete scritto. Mi dispiace per un ascoltatore che mi dice: ma come parli dei cani? Sì, abbiamo parlato dei cani. Secondo me aggiungono qualità alla nostra vita. Io vi aspetto domani e vi auguro una buonissima giornata, con cani o senza cani. Essere e benessere.